contagi. Il giorno è vicino. Ascoltami, vedrai, i fiori cresceranno ancora e nell'ombra ormai aspettiamo sol che il giorno sia. La sai gioiosa.